quadro. Mortgage obligations inventati dal organismo nostro che praticamente fa ricadere su un ente pubblico come l'INPS o come garanzia dello Stato il meccanismo delle pensioni. Negli Stati Uniti questo viene risolto in genere da fondi aziendali, i quali, ecco, vedete come comincia a crearsi quel ammasso di liquidità che dopo darà il via a quel fenomeno di interalimentazione di cui ho parlato. I fondi di pensione cercano in qualche modo di investire sul mercato, cercano di attrarre capitali per poter poi reinvestire, ma hanno un successo molto limitato. Perché? L'investitore finanziario tende ad avere un comportamento polare, cioè immaginiamo che l'offerta finanziaria si distribuisca lungo l'asse. All'estrema destra di questo asse troviamo il comportamento ad alto rischio e alta remunerabilità. Voi sapete che più aumenta il rischio, più per rendere appetibile il titolo che io offro devo offrire interessi particolarmente elevati, e viceversa a un maggiore interesse offerto corrisponde ovviamente un maggiore rischio di insolvibilità. Allora c'è l'investitore che preferisce rischiare molto ma guadagnare tanto, lo scommettitore. C'è invece l'investitore più tranquillo che ama la stabilità, che punta invece sulle aziende, sui titoli a basso rischio e a bassa rendita. Quindi c'è un comportamento polare, o massimo di affidabilità e quindi scarsa rendita, o massimo rischio, scarsa affidabilità e alta rendita. I fondi pensione hanno la caratteristica di collocarsi più o meno al centro di questa barra e quindi tutto sommato di essere scarsamente appetibili, perché non offrono quelle garanzie di stabilità ricercate dall'investitore che cerca la massima stabilità, non offrono quel massimo di remunerabilità che attrae l'investitore scommettitore. La quadratura del cerchio verrà trovata dall'Harvey Fink nell'83. Come? Con una formula diversa, i CMO. I CMO fanno questa operazione. Acquisiscono sul mercato una serie di obbligazioni, per esempio mutui, per esempio garanzia sul credito al consumo, cioè rilevano una serie di debiti di cui si fanno garante, ovviamente percependo gli interessi su quel debito, cioè non è solo il capitale, è anche l'interesse che tu paghi per esempio sul mutuo che viene incassato. Che cosa succede? Questo tipo di titoli acquisiti hanno ovviamente un diverso grado di stabilità e di remunerabilità. Ci sono i titoli più stabili, ci sono i titoli meno stabili ma più remunerativi. Lui fa questa operazione, spezzetta i titoli acquisiti e offre un nuovo titolo fatto con la formula del 70-20-10, un 70% ad alta affidabilità e quindi bassa remunerabilità, un 20% meglio come comportamento e un 10% non particolarmente affidabile però ad altissima remunerabilità. Che cosa succede? In questa maniera lui riesce ad ottenere dalle agenzie di rating, vi ho detto cosa sono le agenzie di rating la volta scorsa, c'è qualcuno che non c'era che lo spieghi? Sì. Le agenzie di rating sono quegli istituti nati già nell'Ottocento negli Stati Uniti che sull'analisi dei bilanci di un'azienda, della documentazione, attestano il livello di solvibilità. Ci sono grosso modo tre livelli, A, B, C. Questi livelli, di solvibilità a loro volta hanno una suddivisione interna, per cui 3A è il massimo di solvibilità, poi 2A una A, poi 3B, 2B una B, poi 3C, 2C una C e lascia stare, non che cosa succede? In questa maniera l'RSI riusciva ad ottenere la AAA, cioè il grado di massima affidabilità, l'intero titolo, perché siccome per definizione il 30% a rischio non può mettere a rischio l'intera obbligazione perché hai un 70% altamente affidabile, quel 70% serviva ad acquisire le AAA, però tu con le 3A non stai vendendo un titolo tutto affidabile, hai praticamente ottenuto la AAA anche per una parte del rischio che in realtà è a bassissimo livello di affidabilità. E questo poi verrà ulteriormente moltiplicato spezzettando ulteriormente questi e ripetendo l'operazione con nuovi titoli che miscelano sempre la formula 70-20-10, ma naturalmente facendo proprio, sviluppando un'equazione regressiva, voi avete a un certo punto la percentuale di rischio contenuto estremamente più alta del 10 iniziale. Che cosa succede? Che naturalmente l'azienda non riesce poi, la società che propone il CMO non riesce poi a realizzare tutti i profitti, soprattutto di quel 10% a bassa solvibilità, e qui si pone il problema: quelle sofferenze come vanno iscritte? Andrebbero iscritte a bilancio, però se le iscrivi a bilancio automaticamente quello ha un riflesso sul rating, perché ovviamente deprime il livello di redditività dell'azienda. E qui il meccanismo di regulation di quegli anni giungerà in soccorso, perché praticamente si fa questa operazione, si crea una serie di società collaterali e attraverso un gioco, scusatemi la banalità, di scatole cinesi, si scaricano, e quello che succederà con la Enron e in Italia con la Parmalat è questo: si scaricano le facilità su una serie di società collaterali in modo da offrire un alto livello di affidabilità, di remunerabilità della società fiscale. Voi capite che questo meccanismo di fatto aumenta sensibilmente il rischio, però nell'immediato stimola l'euforia dei mercati, perché tu hai delle società che offrono un rendimento che non è proprio quello massimo, però non è neanche quello minimo tipico dei titoli ad alta solvibilità, e però nello stesso tempo hanno le 3A. Quindi io ti sto offrendo un titolo che ti rende, ponendo nella scala, 10 di solvibilità, 1 di rendimento, 10 di rendimento, 1 di solvibilità. Io in questa maniera ti sto offrendo un titolo che ti dà 3 di rendimento, ma con 10 di solvibilità. Quindi in qualche modo stimolo al massimo, perché ti garantisco come al 100% un titolo che dà un rendimento triplo rispetto a quello che avrebbe in condizioni normali quel titolo ad alta affidabilità. Mi sono spiegato? Sono. Lo ripeto. Allora, abbiamo detto che ai poli abbiamo due comportamenti tipici: o un titolo largamente affidabile, garantito al 100%, le 3A, che però naturalmente ha un rendimento basso, poi hanno 10 dal punto di vista dell'affidabilità, 1 dal punto di vista della redditività. È chiaro il concetto di affidabilità e di redditività? Sì? All'altro polo abbiamo un titolo che garantisce 10 di redditività, di guadagno, però uno di sicurezza. Chiaro? Con questa operazione spezzatino io che cosa faccio? Piazzo un titolo che ha il livello 10 di sicurezza, però non ha un rendimento 1 come dovrebbe essere, ma ha un rendimento 3. Praticamente le azioni più sicure fanno da traino a quelle meno sicure, che però portano più reddito. Ci siamo capiti? Quindi io stimolo la domanda, perché l'investitore si trova di fronte a un titolo garantito al massimo e che rende molto di più di quello che rendeva un titolo sicuro precedentemente, tutto fatto di obbligazioni sicure. Qui invece abbiamo fatto sto scherzetto. Il problema qual è? Che siccome poi sul mercato io quando vado a realizzare quel 10%, su quel 10% è un po' di bollature del chiglio, proprio perché è ad alto rischio e quindi è normale che un po' di gente non mi paghi, perché altrimenti non si capirebbe perché è ad alto rischio, no? Che cosa succede? Io quelle passività dove le iscrivo? Non a bilancio della mia società, faccio delle società collaterali che acquistano fittiziamente i titoli passivi e quindi faccio delle società che sono delle mattoniere dove metto tutti gli scarti e solo una piccola parte di quelle sofferenze le metto appunto a bilancio della mia società. In questa maniera la mia società risulterà ad avere dei libri contabili perfetti, dei bilanci sempre positivi e quindi questo incoraggerà gli investitori. Chi va a fondo sono già collaterali, ma chi se ne frega, continueremo con questo gioco di scatole cinesi. E lo scandalo farmala è questo. Sì, ma sono chiaramente dite voi. Ma questo meccanismo è nato dai fondi pensione, cioè dalla gestione dei fondi pensione. Dal rimaneggiamento dei fondi pensione per rendere appetibili quei capitali. Ed è però per dei. Noi utilizziamo, e l'avete che ha quest'idea, che si inventi CMO, in cui assimila quei capitali, ne attira altri e compra obbligazioni sul mercato. Allora che cosa succede? Sì. Mi scusi, ma cosa succedeva alle società collaterali che andavano a fondo? Se ne. Non avevano un costo anche no, altro. C'è un problema, perché ce ne mettiamo qualche altra che ma non rileva. Aveva un costo. Sì, ma vai avanti all'infinito inventando di scatole che metti una dentro l'altra. E il meccanismo, io ve l'ho spiegato a lezione, la battuta di Totò che dice al suo cameriere ti pago lo stipendio domani. E quello dice, ma Marchese, lei me l'ha detto ieri, domani, ieri e oggi. Giovanotto, non dare fastidio, oggi e domani e domani. Ho detto domani e domani mi pago. E domani non arriva mai. Il meccanismo è quello che ti pago domani, facciamo un'altra società che domani ti pagherà. Domani faremo un'altra società che ti pagherà dopodomani e andiamo avanti per un bel po' in questa maniera. Probabilmente questo ha l'effetto di gonfiare enormemente il passivo, per cui è un po' come quando si gioca a poker, immagino che tutti sappiate giocare a poker. Quasi. Non sapete neanche giocare a poker. Giochiamo ad altri giochi. A poker tu fai i rilanci e io rilancio sul tuo rilancio fino a quando non arrivo un rompiscatole e cedevo. E se c'è il tre in mano perdi, è lo stesso. Ma vale anche con i 7,5. Il problema è quando arriva il vedo. Bene, noi avevamo messo insieme questo meccanismo. Ma però l'aumento esponenziale di capitali l'ho visto, si parliva a 5,250 piatta. Si è arrivati al punto che c'era gente che faceva debiti in banca per avere denaro, che investiva e magari aveva denaro all'interesse del 3%, va bene? Dopodiché lo investiva in un CMO che gli garantiva un 5% di interesse, quindi praticamente solo trasferendo capitale da una parte all'altra aveva un 2% di differenziale di interesse che in tasca. Ora voi capite che questo giochino diventa un moltiplicatore formidabile, quindi per carità i mercati sono assolutamente euforici e quindi vanno avanti, però la bolla cresce. Bene, da che cosa viene fuori questo fenomeno di questi nuovi, di queste nuove forme? Queste nuove forme poi saranno rese sempre più sofisticate, saranno i famosi prodotti spazzatura o tossici oppure i famosi prodotti salsiccia. Il concetto è quello della salsiccia. Salsiccia cos'è? Voi sapete, carne tritata che viene mescolata con verdure, che se il macellaio è onesto ci mette l'80% di carne e il 20% di eccipienti e di condimenti. Se il macellaio è disonesto ci mette il 25% di carne per dare un po' di gusto e un po' di colore e poi dentro ci mette qualsiasi altra cosa per arrivare al massimo di perfezione che sono i würstel, nei quali, ragazzi, non voglio deludere, di carne non c'è nessuno e sono grasso con eccipienti vari e il simpatico colore ambrato che voi vedete è l'effetto della fumicatura. Quindi sappiate che quando mangiate i würstel, no, qui c'è il würstel italiano, il massimo di creatività italiana, lo scopri perché una volta andrai a visitare uno stabilimento che per dare un gusto un po' particolare fondeva dentro teste e ali di pollo, anche zampe, così, tutto di fantasia italiana. Perché un altro punto tornai a casa e si era giusto di più che non era una sfida da loro mai più questo è allora all'inizio i prodotti erano prodotti salsiccia, alla fine erano würstel di polistirolo espanso, cioè era veramente una cosa in cui tutto c'era meno che denaro, cioè erano tante spazzatura. Che cosa succede? Succede che come mai sono venuti fuori questi titoli che prima non c'erano? È stato il prodotto di una serie di concordanze. Vedete, io vi ho detto all'inizio, vedete a cosa serve la storia? Serve a questa capacità di capire i fenomeni attraversando più dimensioni. Quindi è una sorta di specialismo trasversale a più specialismo. Questi prodotti sono l'incrocio di una serie di fenomeni diversi. Beh, in sede, diciamo, giuridica, la deregulation che c'è stata a partire dalla fine anni 70, per cui sempre più le aziende hanno avuto la possibilità di operare, per esempio, con questi meccanismi di bilancio estremamente disinvolti. La bassa pressione fiscale, che quindi in qualche modo incoraggiava investimenti e velocità del circolante. Non solo, ma ci sono state altre due cose risolute: i computer, le tecnologie informatiche e nuovi modelli di matematica finanziaria estremamente sofisticati. Questo è stato anche il prodotto di uno sviluppo del pensiero matematico. Una cosa che nelle facoltà umanistiche non si nota è stata l'importanza del grande salto che la matematica fa praticamente dalla fine degli anni 30. Voi pensate a una cosa, molti di voi hanno in tasca delle carte di credito o dei bancomat, io credo, no? Beh, sapete una cosa, sapete da dove vengono? Sono l'applicazione di un algoritmo trovato da Fermat verso la metà dell'Ottocento, è rimasto largamente inutilizzato per un secolo e mezzo, quasi 130 anni, qualcosa che era poco più che una curiosità estetica e che improvvisamente invece consente di fare quel giocattolino che voi avete in tasca di plastica per quale si inventa la moneta virtuale. Uno degli aspetti che appunto viene poco considerato nelle facoltà umanistiche per l'antica diffidenza rispetto alle scienze matematiche naturali è lo sviluppo del pensiero matematico, che ha delle ricadute che vanno molto oltre le scienze matematiche naturali, investono la società, l'economia, la finanza, la psicologia, il modo di pensare della società. L'insieme di questi sviluppi del pensiero matematico, di queste soluzioni giuridiche, per esempio del nuovo diritto societario che si afferma in quegli anni, della bassa, di alcune misure di politica economica e finanziaria come la bassa pressione fiscale, e la presenza di uno strumento di lavoro, proprio di un oggetto che consente tutto questo, per esempio attraverso comunicazioni velocissime, tutto questo produce i nuovi titoli, che che verranno piazzati sul mercato. Bene, tutto questo si iscrive, è il motore, è la locomotiva del processo di globalizzazione finanziaria a livello mondiale, le cui promesse, vi ricordo, promesse prima dell'ideologia neoliberista dei primi anni 80, dopo del consenso di Washington, che pure vi ho spiegato e che mi auguro ricordiate, quali erano? Tutto questo avrebbe prodotto prima di tutto della convergenza a livello internazionale, per cui avremmo avvicinato le società più povere a quelle più ricche, avremmo avuto un comportamento più medio, più diffuso, una ricchezza più diffusa sul pianeta. Secondo, il tentativo di conciliare, è un'antica dicotomia, abbiamo bisogno di uno sviluppo particolarmente rapido o di uno sviluppo stabile? Stabilità e velocità sono qualità in qualche modo incompatibili tra loro, si escludono a vicenda. L'idea è, abbiamo trovato la pietra filosofale che consente, attraverso la generalizzazione dei mercati, l'integrazione mondiale dei mercati, consente di massimizzare la velocità dello sviluppo e nello stesso tempo dargli stabilità, dargli in qualche modo equilibrio. L'eventuale squilibrio registrato sul mercato verrà immediatamente compensato dal buon andamento di altri mercati, e quindi questo alla fine consentirà di aumentare la velocità mantenendo stabile il sistema. Un po' come se noi producessimo un'auto molto più veloce, però con un asse molto più largo, delle gomme particolarmente larghe, quindi una tenuta di strada maggiore. Questa è l'idea. Ancora, tutto questo avrebbe consentito una maggiore prevedibilità dei fenomeni e quindi una maggiore governabilità dei fenomeni stessi. E quindi sviluppo e velocità, convergenza, maggiore ricchezza, maggiore omogeneizzazione, quello che piace a uno di voi che da là, che è l'idea di una società finalmente monoculturale che parla la sola lingua. Poi ne parliamo un altro. No, non era esattamente quella la mia idea. Non ero così. Ma un po' quest'idea della convergenza. Ma la sì, ma. Parleremo di questo. Adesso sì. Stavo contestando. Allora, ma la cartina di tornasole per verificare se questo succede o no, qual è? La cartina di tornasole sono le crisi. Le crisi, in qualche modo, segnala, è veramente stabile questo sistema o no? Bene, qui alle manda questa, sì, mentre mi carica la tabella che vi faccio vedere, vi anticipo un discorso. Che cosa sono le crisi? Con la crisi del 2008 si è sviluppato un dibattito. Allora ci sono stati alcuni, per esempio uscì un articolo in questo senso sul Foglio, nel quale si sosteneva questa tesi: la crisi fa parte del pacchetto del comportamento umano e non è patologia, è fisiologia del sistema, perché il sistema funziona sull'alternanza fra fasi di euforia e fasi di depressione del mercato. C'è il momento in cui l'euforia carica se stessa, c'è il momento in cui gli affari vanno male, questo provoca depressione e la depressione può sfociare in panico. Fa parte della psicologia umana, aspettate come ve lo spiego, è inutile che vi affannate a copiarlo. Fa parte della psicologia umana, quindi in qualche modo la crisi è il costo inevitabile che noi paghiamo al progresso. Perché? Perché il progresso ha bisogno di sperimentazione, bisogno di idee nuove, le idee nuove devono essere finanziate. Ma solo una piccola parte di quelle idee nuove riuscirà e produrrà effetti economicamente positivi, profitti, eccetera. Una parte di quelle idee nuove non funzionerà, e quindi questo provocherà perdite, e ciclicamente quando le perdite si accumuleranno ci sarà un momento di caduta di crisi. Quindi la crisi non è patologia, è fisiologia del sistema. Volete il progresso, dovete passare attraverso momenti di crisi. C'è una seconda teoria parzialmente affine che dice no, la crisi non è patologia, è patologia del sistema, ma è una patologia pressoché inevitabile, come quando nella vita di un essere umano, e vabbè, l'essere umano che in tutta la sua vita non ha avuto neanche un raffreddore, esiste, è normale che un certo numero di malattie ci si augura meno grave, ci si augura meno frequente, ci si augura più breve nel periodo, e tocca a tutti quanti. L'influenza di stagione ce la vediamo tutti quanti, o quasi. Un po' tutti, verso una certa età, cominciamo a sviluppare alcuni acciacchi di natura cardiovascolare, oppure per esempio, alla fine, anche cose peggiori. Ma comunque nella vita di un essere umano ci sono delle malattie che sono delle patologie, certamente, che lasciano dei danni, ma che sono inevitabili. Quindi le crisi nell'economia sono delle patologie, ma delle patologie inevitabili. C'è poi un terzo atteggiamento, che è quello che considera la crisi l'incidente di percorso, cioè una patologia che, standoci attenti, si può anche evitare, o perlomeno ridurre. Esattamente come una buona guida sull'autostrada prudente non eviterà del tutto gli incidenti, perché è abbastanza inevitabile che un difetto meccanico dell'auto, improvviso ostacolo, cose del genere, alla fine una percentuale di incidenti è inevitabile che accada, però una guida oculata può ridurre fortemente, ma è la stessa cosa se abbiamo un tasso di incidenti dello 0,3% o se abbiamo un tasso di incidenti del 5%, è ovvio. Quindi la crisi è un incidente di percorso. Quindi voi già capite come si sta passando da un'idea che è quella della spontaneità dei mercati, per cui la crisi è fisiologia del mercato, a una posizione che dice sì, però non è un fatto positivo, è patologia, però pur sempre ci si affida ai mercati, a una terza posizione che comincia a dire no, il mercato deve essere regolato, per cui se sai governarlo puoi evitare l'incidente di percorso o perlomeno ridurlo fortemente. C'è una quarta posizione, che è quella più critica, che dice no, guardate che la crisi è l'epifania della patologia del sistema in quanto tale. È la dimostrazione che un sistema funziona o non funziona. Ovviamente questo significa anche di che crisi stiamo parlando. C'è crisi e crisi. Ci sono crisi di natura monetaria, ci sono crisi di natura bancario-finanziaria, ci sono crisi miste, ma soprattutto ci sono crisi più o meno cicliche, paragonabili alle influenze di stagione, e ci sono crisi ad andamento catastrofico, quello che sempre per ricordare un concetto della complessità che io vi ho spiegato, quello che mette di fronte a una biforcazione catastrofica, per cui devi fare un salto. Devi trasformare il tuo sistema, perché non è un incidente di percorso, è il sistema che non funziona più, è il motore che si è proprio rotto, quindi devi cambiare macchina, questo è il concetto. Bene, ovviamente chi è fautore del sistema esistente non ammetterà mai questa possibilità, parlerà sempre della crisi, al massimo un incidente di percorso. Il critico del sistema invece tenderà, qualche volta esagerando, a vedere crisi catastrofiche anche dove non ci sono, tenderà invece a sottolineare il prodotto inevitabile di un sistema sbagliato. Bene, adesso vediamo qual è stato il comportamento dei mercati nei vari periodi. Consideriamo i paesi industrializzati. Tra il 1880 e il 1913, cioè nel periodo della prima globalizzazione, abbiamo avuto quattro crisi bancarie, due valutarie e una mista, per un totale di 7 crisi in un periodo di 33 anni. Quindi andiamo a una cadenza di una crisi più o meno ogni 5 anni e mezzo. Tra il 19 e il 39, il periodo della grande implosione del mercati abbiamo 11 crisi bancarie, 13 valutarie, 12 miste, un totale di 36 crisi in 20 anni. Quindi da una crisi ogni 5 anni e mezzo passiamo a una crisi ogni 9 mesi, direi, grosso modo. Fra il 45 e il 71, il secondo grande balzo, ovviamente non consideriamo il periodo di guerra, fra il 45 e il 71, il periodo del grande balzo del capitalismo, abbiamo nessuna crisi bancaria, 21 crisi bancarie. Quindi nel giro di 26 anni abbiamo 21 crisi, cioè torniamo a una media quasi di una crisi all'anno, grosso modo, quindi una maggiore stabilità, e tutte, se ci fate caso, bancarie, non bancarie. Sono tutte crisi che riguardano il rapporto di parità monetaria. Fra il 73 e il 97, cioè fra, vi ricordate che io vi parlavo del 73 come data di inizio della globalizzazione, della premessa con la guerra del Kippur, l'accumulazione dei capitali per il rincaro del petrolio, eccetera, vi ricordate? Bene, qui ci fermiamo al 97, abbiamo 9 crisi bancarie, 29 crisi bancarie, 6 miste, un totale di 44 crisi in 24 anni, cioè abbiamo una crisi ogni 5 mesi. Quindi un'incidenza molto maggiore del passato. Attenzione, qui siamo nei periodi in cui avremmo dovuto conciliare velocità e stabilità. Vediamo cosa è successo in paesi emergenti. Ovviamente i paesi emergenti non possiamo considerarli, diciamo, vabbè, lasciamo perdere il primo periodo che in realtà riflette l'andamento delle economie dei paesi metropolitani, in genere paesi coloniali, vabbè, lasciamo perdere il primo periodo. Fra il 19 e il 39 abbiamo 13 crisi, fra il 45 e il 71 17, fra il 73 e il 97 ne abbiamo 95. Se ci fate caso, quello che aumenta sono spesso le crisi valutarie, fino a toccare il punto di 57 crisi di paesi emergenti nel periodo 73-96. Quindi, almeno da questo punto di vista, fonti alla mano, non sembra che abbiamo avuto un particolare equilibrio fra stabilità e velocità. Non sembra che il sistema sia stato molto stabile. Bene. Ma soprattutto cos'è una crisi e che conseguenze ha? Perché per capire cos'è fisiologia o patologia bisogna capire anche questo. Ebbene, se si tratta di crisi, diciamo, di carattere stagionale, ciclico, ricorrente, anche gravi come quelle che, di cui vi parlerò fra poco, dell'87 e del 94, siamo di fronte a crisi che possono avere anche ma non impattano la stabilità del sistema. Di solito sono crisi che hanno una soluzione, se volete positiva, hanno uno scioglimento di tipo positivo, il sistema riconquista il suo equilibrio, scarica i costi su qualcuno, in genere il qualcuno è sempre più sfigato della società, anche perché, come diceva il Manuel Altan, a proposito di l'operaio ci punti, diceva all'altro, ma sai, sono cose che richiedono pratica, noi ci abbiamo pratica e quindi è giusto che facciamo noi. Però al di là del costo che esse comportano, il sistema ritrova un suo equilibrio più o meno stabile a costo più o meno elevato. Anche quello, poi, attenzione, le malattie possono anche guarire, però qualche cicatrice te la lasciano sempre, soprattutto se è una malattia seria, una pleurite di quelle serie ti lascerà qualche stria di sclerosi nei polmoni, per esempio. Un ictus, per esempio, ti lascerà un deficit di memoria, anche se molto piccolo. Beh, qualche cicatrice c'è, ma il sistema si salva. Il problema riguarda le grandi imprese. che hanno conseguenze di carattere catastrofico. Primo, queste crisi come si manifestano? Si manifestano con un improvviso collasso della fiducia sui mercati, che produce in genere un colpo di freno, un po' quello che succede quando andate in macchina piuttosto veloce e fate un'inchiodata. Qualche volta l'inchiodata si traduce in testa a coda, qualche volta comporta il comportamento della macchina. Il testa a coda è quando sei in fase, quando si determina una recessione, cioè quando per un certo periodo i tassi di sviluppo classicamente misurati nel incremento del prodotto interno lordo sono inferiori, vanno in valore negativo, sono meno dell'anno precedente oppure sono inferiori al tasso di sviluppo demografico, per cui noi abbiamo aumentato il PIL dello 0,5% ma la popolazione è aumentata dello 0,7%, quindi la divisione della ricchezza segna uno 0,2 in meno da distribuire. Ecco, questo è l'effetto recessione. Le recessioni di per sé possono essere paragonate alle malattie stagionali ad un certo periodo, dopodiché si torna in positivo. Infatti tutti vi hanno spiegato che gli Stati Uniti sono già usciti dalla crisi del 2008 perché gli indici del PIL sono ritornati positivi già nel secondo semestre del 2009. Abbiamo di nuovo un problema. La crisi è finita, stiamo uscendo lentamente, ma stiamo riconquistando un equilibrio accettabile. Quando invece la depressione, la recessione si protrae per un periodo abbastanza prolungato e soprattutto tende ad andare sotto certi valori, si produce una depressione, che può essere una grande depressione, quello che accadde nel 29, dove la recessione durò per circa 5-6 anni, trasformandosi in una grande depressione, e lì gli effetti sono particolarmente devastanti. Sale in modo impressionante la disoccupazione, quindi cade il tasso di occupazione, i mercati entrano in una spirale negativa, il concetto di feedback positivo, vi ricordate, per cui un fenomeno riproduce se stesso in modo sempre più allargato, per cui più ci sono disoccupati, più cade la domanda sul mercato interno. Più cade la domanda sul mercato interno e quindi si vendono meno merci, più aziende vanno in crisi, falliscono, nuovi disoccupati, nuova contrazione della domanda sul mercato interno e via via, fino a quando non fai qualcosa per spezzare questa spirale, no? Che riproduce in modo amplificato la patologia. Non solo, ma questo ovviamente a sua volta provoca una retrocessione del paese nel sistema internazionale, perché un paese che deprime fortemente il suo PIL, quindi naturalmente è costretto a fare dei tagli su tutto, dall'istruzione alla difesa, quindi indebolisce la sua posizione sui mercati internazionali, indebolisce la sua posizione anche sul piano dell'equilibrio delle forze militari, indebolisce la sua posizione anche nel sistema delle relazioni internazionali. Non solo, ma la crisi produce spesso, soprattutto quando è una grande depressione, produce una delegittimazione del sistema che investe non solo il sistema economico, ma anche il sistema politico. Guardate cosa sta succedendo in Grecia in questi giorni, cosa è successo in Argentina alcuni anni fa. Capite per esempio che la crisi del 29 trova un suo sbocco nel collasso della democrazia, per esempio in Germania, e nell'affermazione del regime nazista. Quindi le grandi crisi, si ha un bel volerle considerare fisiologia, non sono patologia, sono qualcosa che spesso porta a morte il sistema o politico o economico o entrambi. Quindi sono sicuramente una grande patologia. Bene, parliamo allora adesso di questa crisi di fronte alla quale ci troviamo e poniamoci queste domande: da dove viene? Era prevedibile o no? Terzo, la natura di questa crisi. È una crisi di carattere stagionale o è una crisi, è una grande crisi, è l'inizio di una grande crisi? Iniziamo con ordine. Era prevedibile questa crisi? Per certi versi sì. Intanto perché ci sono stati tre precedenti. La crisi del 1987, il crack dei mutui del 1994, badate, assolutamente identico a quello vissuto nel 2008, la crisi del 1998, la crisi dei titoli della cosiddetta Rimeconi, dei titoli... La bolla di internet. La bolla internet del 99-2002. Quindi avevamo avuto una serie di sommovimenti. In secondo luogo, quasi tutte le grandi crisi, ricordatevi di questo, sono quasi sempre precedute da grossi scandali bancari. Perché? Perché più delle volte si osserva un'interazione fra manovre finanziarie particolarmente spregiudicate, particolarmente azzardate, e l'incrocio con la corruzione, per cui ad esempio saltano tutti i meccanismi di controllo. Ebbene, noi abbiamo avuto un'intensa serie di scandali finanziari, i più grossi sono stati quello dell'americana Enron e quello dell'italiana Parmalat, ma abbiamo avuto anche altri casi minori. In Italia abbiamo avuto il caso della 121, abbiamo avuto il caso dell'Antonveneta, abbiamo avuto una serie di casi, precedentemente proprio nell'89, 87-89 abbiamo avuto il caso della BNL. Comunque abbiamo avuto una lunga serie di scandali bancari che sono il classico preavviso di qualcosa, sono un po' quelle scosse di terremoto limitato che annunciano il terremoto più devastante in arrivo. Non solo, ma nel 2005 ci fu un economista, oggi considerato una sorta di guru, se leggete Repubblica oggi c'è un'intervista molto vistosa su quello che sta succedendo in Grecia, Rubini è un americano turco che però ha studiato in Italia, personaggio abbastanza complesso dal punto di vista delle origini, che nel 2005 con grande precisione disse che stavamo andando a grande crack e ha fatto anche alcune proposte. Bene, trattato poco meno che la macchina, personaggio assolutamente marginale, eccentrico, che dice delle cose che lo stanno in piedi. Dopo, quando nel 2008 è venuto fuori che invece no, ha ragione lui, è diventato un guru. Attenzione, perché Turini non è affatto un fautore dell'economia statale, cioè è un economista di sicura fede liberista, capiamoci, è un sostenitore della libertà di mercato, della finanza, eccetera eccetera, però lo fa, diciamo, con una certa onestà intellettuale. Dopo torneremo. Non solo, ma c'è un sintomo ancora più forte. Nell'estate del 2007 fallì negli Stati Uniti una piccola banca. Fu il preavviso di quello che sarebbe accaduto nell'estate precedente, perché le modalità del fallimento erano assolutamente identiche a quelle che si registreranno fra un anno per le maggiori banche di investimento americane. A seguito di quel fallimento, Sir David Walker, che era uno dei maggiori e più autorevoli esponenti delle private equity, delle società, sono società di capitali di natura particolare perché non sottostanno alle regole, diciamo, previste dal codice per le società di capitali. Adesso magari non abbiamo detto questo. Comunque, un personaggio estremamente autorevole della SIC. Convocò un convegno 20 novembre 2007 nel quale denunciò pesantemente la mancanza di trasparenza dei bilanci, che iniziava a far tremare proprio l'affidabilità. cominciare da Moody's. Quel che è peggio è che questo si intrecciava con i nuovi con le nuove forme di finanza adottate dagli stati, per cui gli stati emettevano particolari titoli, obbligazioni di diritto pubblico, i bond, sottoscritti da banche o a loro volta acquistavano titoli privati. È nata questa sorta di confusione per cui, per esempio, abbiamo il problema del processo al Comune di Milano per l'acquisto di una serie di titoli che si sono rivelati poi inaffidabili. Proprio ieri il sindaco Lamoratti ha sostenuto che siamo stati truffati dalle banche che ce li avevano garantiti con buono. A proposito, vi informo che la Regione Lombardia ha recentemente, non troppi mesi fa, fatto un'importante operazione finanziaria comprando una discreta quantità di titoli di debito greco, il che depone sulla lungimiranza economica dei nostri amministratori. I titoli di cui parlava Moratti sono i derivati? Esatto. Ah, famosi derivati. I derivati in realtà sono uno dei meccanismi. Perché i derivati? Perché appunto è questo meccanismo. Allora, il problema qual è? Come vedete, i segnali c'erano e c'erano già da diversi anni. Ogni volta ogni singola crisi era stata risolta rilanciando la palla più in alto. Scusi professore, ma la regione in base a quale principio investe in azioni? Ha preso le sue società finanziarie, perché noi abbiamo creato quest'idea geniale che una società e una regione mette in quindi indirettamente nel bilancio della regione Lombardia noi non lo vediamo. No, lo vedi, perché c'è la società finanziaria creata dalla regione, dal comune, dalla provincia, che ha una dotazione di capitale che dovrebbe investire per far ritornare a lanciare. Dovrebbe portare profitti da mercato finanziario alla loro. Voi state vedendo quanti profitti dobbiamo mettere insieme, eh? E uno degli investimenti geniali è stato quello di titoli greci. Ma perché? Perché i titoli greci erano creati. Improvvisamente Moody's e le agenzie di rating scoprono che la Grecia non è così affidabile come la passo. Quindi questa crisi era altamente prevedibile, era già in realtà. Noi possiamo parlare di una crisi, ma non voglio dire dall'86 e non voglio dire neanche dal 94, ma che si è aperta sostanzialmente nel 98 e che siamo di fronte a un'unica crisi che ha dei momenti di tregua sempre più ridotti sempre più circoscritti, ma con dei periodi di crisi sempre più allargati come ampiezza di aree economiche e finanziarie investita e sempre più prolungati. Ad esempio, se fra qualche anno, come facilissimo credere, nel 2012, dovessimo trovarci di fronte a un crack molto peggiore di quello del 2008, non potremmo dire che c'è una nuova crisi, semplicemente è una prosecuzione della crisi aperta nel 2007-2008 che con un momento brevissimo di tregua 2009 neanche 2010 perché poi sì, la crisi è finita, ma Islanda, Dubai, Grecia, adesso Portogallo, Spagna, rischio Italia, Irlanda, a rischio paesi baltici, il che significa tirarci dentro la Svezia. Non è esattamente un quadro di stabilità, ricordate. Allora, questa crisi era più, ma perché non è stata prevista? E qui cominciamo ad anticipare un discorso, perché spesso si parla delle agenzie di rating, degli economisti che girano per le università e scrivono sui maggiori quotidiani cristiani vanno in televisione e fanno i consulenti dei coreani, come osservatori neutri che vivono nell'Olimpo, che non hanno interessi e che del tutto spassionatamente svolgono un lavoro scientifico, esattamente come un medico esaminerebbe una colonia di batteri, non avendo alcuna ragione per fare giudizio per alcuni batteri piuttosto che per altri, e che poi alla fine ti danno un responso scientifico. Così non è. Perché in realtà il dibattito economico non è scindibile dal gioco di interessi che si incrosta intorno ad esso. E allora, ad esempio, gli economisti, e non sono gli economisti, gli economisti sono spesso i consulenti del principe, profumatamente pagati per questa loro funzione, e che non è opportuno che dicano cose sgradite al loro committente. Possono scrivere sui giornali. Ricordate, io vi ho parlato di un problema di un collasso di trasparenza. Che fai? Tradisci la consegna del silenzio? No. Le agenzie di rating, ma le agenzie di rating non sono esattamente un ordine francescano, non sono un esempio, un fulgido esempio di compagnia della resina, no? Sono delle società, intanto che ricevono delle committenze profumatamente. L'agenzia che dette le 3A alla Parmalat era compensata con 170.000 euro all'anno, un'inezia rispetto ai guadagni che la Parmalat faceva piazzando porcherie sul mercato finanziario, ma comunque una cifra rispettabile. La Grecia pagava fior di soldi alla compagnia di rating che garantiva. Quindi intanto che strano controllore è questo controllore pagato dal controllato, a quale non può dispiacere quel dilettante. Sì, certo, la reputazione ci mette la faccia, e va tutto, la faccia non è quello che manca. Non solo, ma guarda caso le agenzie di rating sono tutte americane. E questo non è perfettamente neutrale. Anche perché esiste un livello di interazione forte da un lato fra le agenzie di rating e le società americane, e quindi società finanziarie, e quindi vi è un dubbio, era proprio disinteressato la concessione delle 3A alle quattro banche d'affari americane fallite una dietro l'altra e salvate poi da Obama? E insomma, come è possibile che la Stanley Morgan ha avuto le 3A fino a 48 ore prima di fallire? Come si può passare dalle 3A a una C nel giro di 48 ore? È qualcosa di sbagliato, no? E qui si è acceso un dibattito. Forse erano sbagliate le informazioni, i nostri modelli erano giusti, ma ci hanno dato informazioni sbagliate. E qui chiami in causa i meccanismi di deregulation. Qualche altro invece dirà, no, guardate che non sono modelli che erano sbagliati, erano sbagliati in modo compiacente. Erano modelli studiati in modo tale che l'investitore e il committente si sentisse dire quello che voleva sentirsi dire. Questo è un libro molto interessante a questo proposito, di Pierangelo da Crema, La crisi della fiducia, le colpe del rating, della ETAS. Per chi avesse curiosità del genere, ve lo consiglio, è molto interessante. Bene, come vedete quindi, non solo, ma le società, le banche d'affari americane, a loro volta, sono collegate alla Fed, la federazione, la banca federale americana, che è quella che emette il dollaro, che è il cuore di Wall Street. E a Wall Street esiste un servizio di informazioni, l'agenzia Kroll, strettamente legata alla community delle agenzie di intelligence americane. Quindi, come vedete, esiste una serie di rapporti che vanno dall'amministrazione americana, passano attraverso i servizi di informazione e sicurezza dello Stato, quelli di Wall Street, la Fed, le banche d'affari, le agenzie di carte. È un contesto di interessi dove non puoi arbitrariamente separare un elemento dall'altro. E quindi quel comportamento era un comportamento casuale? Ci sono molte ragioni per sospettare che non fosse, che non si sia trattato di errore casuale. Dunque, una crisi prevedibile ma che non si è voluta prevedere, dietro cui c'erano una serie di interessi. Cerchiamo di capire, proprio se ora abbiamo fatto. Ragazzi, io sono drammaticamente indietro, perché a parte questo c'ho ancora una mezza lezione da farvi sulla crisi e sono già in capo di una lezione sul programma. Se io vi propongo di fare una lezione in più, sorridete, vi va bene o no? Certo. Quando? Ma forse è chiaro, non è un problema. Però ecco, vorrei che mi venisse un minimo incontro, perché fare un corso del genere in 20 lezioni è una pazzia allo stretto puro, anche perché, come vedete, io sono costretto a spiegare una serie di concetti economici, perché poi economia non l'avete ancora fatto. Mi auguro che questa anticipazione vi aiuti anche nell'esame di economia, però obiettivamente questo mi fa perdere un mare di tempo per essere capito. Schematicamente, quali sono le ragioni che hanno portato a questa crisi? Molti hanno detto questa crisi come una crisi di la definizione del 29, una crisi della sovrapproduzione. In realtà non parlerei di una crisi da sovrapproduzione, perché non c'è stata una caduta della domanda sul mercato. Nel 29 il problema è che a un certo punto la gente non ha i soldi per comprare. Le merci rimangono invendute, c'è una crisi di realizzazione del profitto, perché tu hai prodotto non bene, quindi non realizzi il profitto. A quel punto si svela il meccanismo del capitale fittizio e hai la caduta. Il capitale fittizio è appunto il capitale di obbligazione che in qualche modo anticipa. Qui non è che sia andata così, perché grosso modo attraverso il credito al consumo banche, delle carte di credito, soprattutto in termini sostegno ai mutui, il basso interesse al costo del denaro, no? Cioè il tasso di sconto bassissimo che abbiamo applicato, attraverso relative pratiche di detassicalizzazione, eccetera. Grosso modo, il mercato ha retto, la domanda interna sul mercato ha retto. Il guaio è che era pagato non più con denaro reale, ma sempre più con impegno di spesa. E qui le spiegazioni sono diverse. Primo, il sovraconsumo degli Stati Uniti, che da circa 10 anni consumano stabilmente il 25% in più di quello che producono. E siccome producono tanto, anche il 25% è. Secondo, l'enorme costo delle guerre in Iraq e Afghanistan, che sono costate ben di più di quelle del Vietnam, che a sua volta, vi ricordate, mise nei pasticci gli Stati Uniti nel 1971. Terzo, certo, non ha aiutato il processo di delocalizzazione, l'idea che l'industria sarebbe stata trasportata nei paesi in via di sviluppo e il sistema, il modello di sviluppo dei paesi metropolitani occidentali si sarebbe retto sostanzialmente su una residua quota industriale, high tech e soprattutto industria di armamenti, servizi, grande rete di servizi e finanza, è un modello che alla prova dei fatti non ha retto. All'improvviso non hai letto i livelli occupazionali e la delocalizzazione precarizzazione vostra, di voi futuri lavoratori, è la precarizzazione anche dei flussi finanziari e quindi è la precarizzazione anche delle vostre obbligazioni. Quello che succederà in un momento. Ci sono poi altri elementi molto importanti, per esempio l'incidenza della corruzione. Per esempio, e questo è uno dei problemi cuore di questa crisi, il fenomeno delle stock option, delle retribuzioni dei manager. Sempre più i manager che sono stati i protagonisti della rivoluzione neoliberista. Quando io vi parlo di quei modelli nuovi di rischio, i vari CMO, eccetera, eccetera, che ho descritto, sono invenzioni di questo ceto manageriale creato nelle nostre università e allevati a fare il neoliberismo e a credere neoliberista. Questi manager hanno conquistato livelli retributivi assolutamente senza pari nel passato, sono una delle voci consistenti del disavanzo. A questo proposito c'è un altro libro che vi posso segnalare, ma ne parleremo meglio nella prossima lezione. Guardate, tesi molto lontani dal mio, Giulio Sapendi, professore docente alla Statale qui a Lettere, di storia economica, la crisi economica mondiale della Pollardino di ieri, dove avevo visto un capitoletto molto interessante sul corpo di Stato degli stock optionisti, orrendo neologismo. Questa è una cosa che svilupperemo nella prossima lezione domani, chiudendo questo discorso. Quindi, come vedete, l'incrocio di un'incrostazione di interessi, per cui le banche non avevano interesse a mettere in dubbio la solvibilità di alcuni titoli che si vendevano, cioè gestire i dati, i manager, i governi. Tutto questo ha creato una sostanziale solidarietà nel mantenere in equilibrio e far crescere le bolle speculative. Quando si è rotto il giocattolo? E il giocattolo si è rotto quando, vedete, un'altra delle cose che ho detto delle leggi della complessità, per cui non sempre il comportamento è prevedibile, c'è un rapporto lineare tra input e output. Molto spesso l'effetto è determinato da un convergere più o meno casuale di cause diverse. Nel 2008 abbiamo avuto una serie di cose, intanto abbiamo avuto il fatto che inizia a manifestarsi la caduta dei tassi occupazionali del monte salari. Fino a quel punto le banche andavano avanti come? Ti do il mutuo addirittura al 120% della casa che compri, mi prendo le rate che riesci a pagare, dopodiché, e recupero già un tempo. Se non ce la fai più a pagare, non c'è problema, ti esproprio la casa, la rivendo, nel frattempo c'è un aumento delle aree fabbricabili e del costo degli immobili e quindi io ho guadagnato, perché mi sono preso intanto le due rate di mutuo e in più ho fatto la speculazione. E siccome in continuazione c'è un aumento di domanda di case, perché io finanzio con i mutui questo, le case aumentano di valore, quando io le rivendo, la casa l'ho venduta a lei, me la riprendo, la rivendo a lui a un valore maggiore, me la rivendo a lui e così via. Questo fa crescere la bolla immobiliare. Il guaio è quando a un certo punto non c'è più gente che neanche ti chiede il credito, perché la caduta dei tassi occupazionali e dei tassi salariali rende questo non più possibile. E quindi il mercato a quel punto comincia a sgonfiarsi. Le case perdono il valore, la gente non paga. Le banche si trovano con valori sempre più deprezzati. Però nello stesso tempo sono costrette ad agire in questo modo. Perché? E qui venite al problema dell'iperalimentazione di questo capitale. Quando fallì quella prima banchetta nel 2007, che aveva comperato veramente spazzatura della spazzatura, il giudice chiese all'amministratore di bancarotta: a voi ti è venuto in testa di fare affari così palesemente spazzati? questo, da questo tornado, questa valanga in denaro che invade i mercati finanziari, spinge a questo meccanismo, spinge a, e l'effetto leva diventa un moltiplicatore, un feedback positivo per il quale tu spendi il profitto prima ancora di averlo realizzato. Tu fai un affare dal quale ti riprometti di ricavare 100 e quel 100 lo hai già prestato a lui per un affare che dovrebbe rendergli 300 e lui a sua volta ha già investito 300 in un ulteriore affare. Ma guardate che non abbiamo realizzato il primo di questi affari. Tutto è un castello di carte che si sta reggendo sulla sabbia. Cosa succede? Che quando poi si mettono in moto dei meccanismi, alcuni prevedibili, la caduta del monte salario di capitale, altri non prevedibili e convergono, il castello di carte crolla. Uno degli elementi del 2008 è una congiuntura politica particolare. Primo, si avvicinano le elezioni presidenziali americane e c'è il classico vuoto di potere, diciamo. Il presidente negli ultimi 6 mesi del suo mandato ha poteri attenuati, in ogni caso ha un limitato ascendente, diciamo così, politico. Peraltro Bush ne usciva a pezzi anche a causa delle 2 guerre in cui si era impregolato e che non stavano dando alcun risultato. A questo si aggiungono 2 eventi particolari: la crisi del Caucaso, nella quale la Georgia si appella alla NATO, spera in un intervento, tutto razionalmente, un intervento della NATO, e i russi per la prima volta mostrano i muscoli intervenendo militarmente, sfidando l'Occidente che si astiene da qualsiasi guerra. In un momento il sogno del grande impero americano come gendarme della pace nel mondo, come pietra angolare del sistema, nuovo ordine mondiale, come impero unico, finisce a pezzi e si capisce che gli Stati Uniti non sono in grado di risolvere questa situazione. Contemporaneamente c'è un evento apparentemente insignificante, le Olimpiadi di Pechino. Le Olimpiadi di Pechino hanno un impatto assolutamente imprevedibile, perché dimostrano che la Cina è più avanti come tassi di sviluppo di circa 15 anni sulle previsioni. Il rapporto di forze a livello mondiale è cambiato. Ormai non è più possibile parlare di impero unico, ormai si è affermato, si è conclamato un sistema multipolare. Quindi una situazione politica di scarsa possibilità di intervento e di efficacia da parte dell'amministrazione americana, una caduta delle domande sui mercati interni, un arrivare dei nodi al pettine che improvvisamente spiega il gioco, crisi delle grandi banche d'affari americane. Bene, domani parleremo di che cosa è la crisi che abbiamo davanti, per esempio della crisi greca, dei suoi effetti, del dibattito sulla nuova teoria del rischio. Ci sono anche qui delle slide che voi andate a vedere, come al solito non ce la farò mai. Ok, facciamo come al solito un minimo di discussione. Che ora abbiamo fatto? Cioè abbiamo ben 20-25 minuti di discussione, così prendo un po' di fiato anche io, che ne dite? a me passo che cioè, ho trovato abbastanza strano questa quindi, connivenza degli economisti a un progetto a cui poi però sapevano che sarebbe andato a fallire. Cioè, voglio dire, siccome appunto il progetto neoliberista ha anche tutto il suo portato, come dire, ideologico, cioè il predominio degli Stati Uniti, eccetera, eccetera, tutta la costruzione che hanno fatto dopo la fine della guerra fredda. Cioè, mi chiedo come mai hanno vinto la guerra fredda facendo fallire l'Unione Sovietica e poi a loro volta rifanno gli stessi errori, come per esempio la guerra in Afghanistan. Cioè, voglio dire, è già una cosa già dimostrata che erano guerre fallimentari. E se, cioè, è possibile che il predominio della sfera economica sulla sfera politica sia stata così netta da offuscare la situazione generale? Forza! Io un appunto a quanto ha detto Gualandri, ha detto che si capiva fino all'inizio che era un fallimentare. Fallimentare per chi? Io mi ricordo benissimo una scena del film di Michael Moore, non mi ricordo quale, che lui era presente mentre dei magnati dell'industria, della raffinazione, del petrolio, erano lì in una sala, guardavano una lista su una slide di concessioni che il governo avrebbe attribuito e si vedeva che erano lì tutti soddisfatti pensando ai prossimi affari di aspettare. No, ma appunto dico, cioè, come mai c'è stato questo predominio dell'economico, okay, dei banchieri sulla politica che non è riuscita a prevedere la sua perdita di potere? Ok, se la mettiamo così sì, giusto. Io ho una domanda. Lei ha parlato delle crisi delle banche successivamente salvate da Obama. Sì. Volevo sapere in che termine è stato salvato dalla prima. E poi una domanda sulla crisi dei mutui. In base a quello che avevo sentito, ho letto, insomma, mi è parso di cogliere la mancanza di un passaggio, mi sembra, in quello che ha detto lei. Cioè, a me l'hanno detto nel momento in cui non si veniva più a pagare il mutuo per la casa, le banche stesse finanziavano un altro mutuo per pagare questo. Era uno dei meccanismi. I mutui su tale. No, quindi esiste. Era uno dei meccanismi. Sono stati. È un po' come, c'è presente i prestigiatori che hanno in equilibrio 5 palle, e poi diventano 6, e poi diventano 7, e poi quando arrivano a 15 cadono tutte. Cioè, hai voglia vai in sofferenza, stai semplicemente qua a guardare i banchieri che giocano, noi personalmente come possiamo reagire a queste crisi strutturali o meno? Siamo lì e guardiamo loro che si divertono o possiamo fare qualche, cioè agghiacciante quello che si è detto adesso? No, devi sentire se tecnica, non ho capito bene una cosa, quello che Larry Fink faceva col discorso dei titoli che venivano spezzettati, ma quello che rivendeva non era un titolo, era un pacchetto di titoli semmai. In che senso? Perché allora il titolo della... Il meccanismo è questo. Io rilevo una serie di contratti, per esempio qui, da lui, poi compro un po' di bond di stati stranieri. Poi compro un po' di emissioni di società. Mi invento un titolo in cui c'è il 5% del suo mutuo, l'8% del suo debito, il 7% è costituito da parte delle obbligazioni di quella società, il 20% dal bond di quello Stato e così via. E ne ricavo un titolo diverso che piazzo in borsa, cioè quel titolo che piazzo attraverso le banche ha già al suo interno uno spezzatino. Successivamente che succede? Che Molinelli compra uno dei miei titoli e lo spezzetta a sua volta, compra uno dei miei titoli, uno dei suoi, cioè, e lo spezzetta in un altro prodotto salsiccia suo. Poi lei compra il titolo di Molinelli e a sua volta lo spezzetta. A un certo punto noi non capiremo più l'origine delle obbligazioni, diventerà totalmente illegibile il titolo che compriamo, ma che la banca sul mercato mi sta vendendo come roba buona, forte del fatto che la Moody's sta dicendo che ha una crisi. Cioè in realtà qual è il problema? Il problema è che noi abbiamo inventato il mercato del rischio. Ora, ma voi scusate, ma che sistema è un sistema nel quale io garantisco il mio debito con il suo debito? Io devo avere 100 lire da me e metto una cambiale per 150 lire, quello che è, a lui, e lo garantisco, no, perché guarda, quindi devo cambiare. Lui a sua volta emette un'ulteriore cambiale per 200 lire e la vende a me. Dicendo no, perché mi deve pagare per lui che deve essere pagato da Paolo. Poi lei rivende a Molinelli. Cos'è il sistema intelligente? Il rischio non può, e qui c'è il problema della teoria del rischio. C'è poco da fare, non puoi impazzire di fronte al fatto che dobbiamo trovare una teoria del rischio che renda sicuro. Il rischio lo puoi assumere tu, non puoi vendere un tuo credito. Il problema è fra te e il tuo creditore. Le catene di credito fatte in questa maniera portano inevitabilmente a questa illegibilità, anche perché poi è inevitabile la pratica, lo spezzatino, per a rispondere velocemente. Allora, Georgia, bisogna capire che cos'è la Georgia. Quando c'era l'Unione Sovietica c'era un sistema molto particolare, chiuso, come voi sapete. I gruppi dirigenti dei partiti delle repubbliche federate iniziavano a sviluppare una propria attività economica anche per garantirsi rispetto alle pressioni del centro di Mosca, che per lo più si svolgeva attraverso affari con la malavita locale, con la mafia. È la nascita della mafia russa, in particolare quella dell'Uzbekistan. Il meccanismo per cui la Georgia è uno dei paesi nettamente in cui è più presente questa tradizione. Per di più si trova ad avere un presidente di non eccelsa qualità intellettuale, Giulia Simoni, l'avete visto in televisione, non possiamo tutti alla cravatta, che decide di fare la prova di forza occupando un territorio contestato con la Russia. Ora io non ho alcuna simpatia, non credo di credermi, per Putin, ma realisticamente non riesco a dar torto a Putin che dice, insomma, qui anche le pulci hanno la tosse e con una zappata schiaccia la pulce. Direi che il guaio è che quello svela la fragilità di quello che si riteneva l'ordine mondiale fino a quel momento. Questo in sé, quella è una scemenza di un gruppo dirigente come quello georgiano, che è quello che è, ma che poi ha effetti molto più ampi, che vanno molto al di là. D'altronde la Russia non ha mai invaso la Georgia, si è limitata a ributtare fuori dal lavoro a Karabakh e a dargli una lezione. Però quello ha dato un segnale politico che andava molto oltre. Oh, il cuore di tutte le vostre domande è, ma come può succedere che gli economisti, sapendo che vanno incontro a un fallimento, continuano a sostenere cose così false? Come può succedere che l'economia prevalga sulla politica? Allora, i meccanismi attraverso cui queste cose si affermano sono meccanismi complessi. Intanto c'è il cosiddetto pensiero desiderante, per cui tu scambi desideri per realtà e poi a quel punto decidi che una cosa deve andare in un certo modo. Questo è il più classico dei meccanismi di autoinganno. Guardate che le società vanno avanti anche in base agli autoinganni. Poi prima o poi vengono fuori e sono dolori, ma per un po'. Ma esistono anche altri meccanismi. Quello che diceva D'Oronzo è che poi la rovina collettiva non necessariamente la rovina di ciascuno, c'è sempre qualcuno che galleggia. Il guaio è che tutti sperano di essere quel qualcuno e ognuno si fa i calcoletti suoi dicendo sì, va bene, affonderà la nave, ma io c'ho un salvagente, io me la caverò, anzi ci farò pure qualche affare, perché magari mi impossesserò del piccolo scrigno che è il mio vicino che affogherà. Poi più delle volte questi calcoli sono sbagliati, come dimostra il fatto che nella maggior parte dei casi la maggior parte è quella che affoga. Quindi evidentemente la maggioranza ha fatto un calcolo sbagliato. Però poi c'è un altro meccanismo, quello per il quale sei dentro un ingranaggio e non sei più libero di dire quello che sai, quello che pensi. Perché i generali di Hitler continuavano ad assecondare un Führer ormai impazzito, che continuava a dare ordini a divisioni ormai inesistenti e non avevano il coraggio di dirgli: scusi Führer, ma vede, la 18ª divisione non esiste più, ma l'ha spezzo, sa? Perché ci sono dei meccanismi, in parte vabbè, la difficoltà di contraddire una persona suscettibile di quel genere, ma anche il fatto che ormai sei nel meccanismo e pensi soltanto a salvarti, lo capisci che tutto sta finendo, ognuno cerca di crearsi una via di uscita. Allora c'è il generale Goebbels, che è il più furbo di tutti, che nel gennaio c'è qualche altro che fa un calcolo magari di sbagliato, perché vabbè, non finirà proprio che gli americani entreranno a Berlino, arriveremo a una qualche pace di compromesso, magari io all'ultimo farò il colpo di stato contro il Führer e tratterò io la pace, e per esempio la speranza dei contratti del 20 luglio sarà in qualche modo la speranza di Dönitz, di altri. Ci sono quei meccanismi in cui non sei libero di fare quello che ti interessa giusto fare, ma hai un raggio di scelta piuttosto limitato. C'è poi il perché l'economia ha preso il potere sulla politica. Vi ricordate quello che vi ho detto sul periodo di Fominzia e Sifonaia? Questo è il punto di arrivo di quella cosiddetta pseudoscienza, che è la prassiologia. Per cui se tu ritieni che il mercato sia un meccanismo perfettamente autocompensato al suo interno e che quindi tutto quello che il potere politico debba fare è astenere da qualsiasi intervento e solo garantire la libertà di mercato, questo è il punto d'arrivo. Se poi tu avevi l'intera classe di manager e di dirigenti della pubblica amministrazione, di politici e di finanzieri, tutta in questo credo, a un certo punto ti giri e non è più una classe dirigente. Questo quando va bene negli Stati Uniti, dove hai una classe dirigente magari molto ideologizzata. La cosa divertente è che la loro critica di ideologia ha assunto carattere di fondamentalismo ideologico molto forte. È molto peggio quando arrivi in una situazione come quella italiana, dove hai una classe dirigente non ideologizzata ma complessivamente impresentabile, che è incapace di formulare decisioni razionali. E la decadenza delle classi dirigenti, delle elite, è uno dei problemi reali del funzionamento della società, è una delle patologie maggiori che può determinarsi in una società. Ancora, mi chiedete se come ha fatto Obama a salvare le banche, è semplicissimo, un tratto di penna. Ha assunto semplicemente le obbligazioni delle banche come obbligazioni dell'amministrazione americana. Ha detto di quelle obbligazioni rispondo io, quindi ha assunto un impegno di spesa. Questo ha avuto la trascurabile conseguenza di aumentare, credo, del 65% del debito pubblico americano, dello Stato americano, questo è un altro paio di maniche, ma ha fatto un'operazione puramente contabile, un'operazione. La cosa divertente è che il mercato ha reagito come se il mago Obama si fosse presentato con la bacchetta magica e puff, avesse fatto sperdere i piedi. Sono sperdere, sono stati solo trasferiti. E infatti il nodo, vi ho detto, è quello del 2012. I conti li faremo là. Quando arriverà una scadenza quei buoni poliennali, settennali e quinquennali, sottoscritti fra il 2005 e il 2007 in stato di euforia. Quando si pensava che appunto lì fosse un folle e che lo sarebbe andato avanti definitivamente, e quindi venne sottoscritta a condizioni assolutamente allentanti una grande massa. Tra due anni non sappiamo come pagare questa roba. Rodina, sì, in effetti il problema è esattamente quello che dicevo, il credito al consumo che è stato alimentato in tutte le forme, per cui addirittura noi abbiamo permesso che singoli operatori commerciali emettessero proprie carte di credito. Guardate, per esempio, uno dei mondi in cui sta succedendo qualcosa del genere è il mondo del calcio, che ho detto della carta di credito dell'Inter, però in altri paesi lo fanno altre società sportive, non necessariamente di football, non so. Sì, questo è uno dei problemi reali ed è il problema del sovraconsumo, come vi dicevo. Per questo io insisto a dire, guardate, questa non è stata una crisi da sovraproduzione, ma è stata una crisi da iperconsumo. E noi continuiamo a fare i conti con questo dato. Mineo, e noi che facciamo? Oddio, questa è una risposta che non può essere data. giocare sull'esattezza della propria previsione fondata su un particolare schema. In qualche modo c'è una scommessa e il risultato in genere non è mai al 100% coincidente con una delle previsioni, è sempre qualcosa di un po' diverso, per cui c'è chi si avvicina di più, c'è chi si avvicina di meno. Io personalmente credo che questa sia una crisi che investe gli assetti di potere, sia a livello mondiale sia a livello dei singoli paesi, dei singoli economici. Domani ne parleremo un po' meglio, perché ad esempio a proposito del dibattito sulla teoria del rischio non sia possibile fare una discussione puramente scientifica, ma è una cosa che investe direttamente gli assetti di potere. In questo senso io credo che sia. Poi però non so le macchie stasera, mi ha risposto subito. Ah, le ho già risposto, perfetto, no scusi, ma comincio ad avere un po' di problemi a questo. Vabbè ragazzi, domani e poi magari domani decidiamo se viene tornato il tempo, se noi non ce la facciamo. Non c'è più.